salvati per servire, servire per essere salvati. Poiché anche il Figlio dell'uomo non è venuto per essere servito, ma per servire e per dare la sua vita come prezzo di riscatto per molti. Conosco poche affermazioni nella Bibbia come questa che in poche parole riassumano il vero motivo per cui Gesù è venuto sulla terra. Se domandate alle persone perché Gesù si è fatto uomo, le risposte saranno molte. Perché amava gli uomini, per morire per noi, per farci conoscere Dio, per guarire gli ammalati, per far del bene. E tutto questo è vero, ma non è il motivo fondamentale. Anzi, le ragioni che adducono le persone sono il risultato del motivo fondamentale per cui Gesù venne sulla terra. Gesù è venuto per servire, e anche la sua morte in croce è il risultato di questo suo atteggiamento. Per Gesù non avrebbe fatto differenza morire in croce oppure no, il suo scopo era fare la volontà di Dio, ubbidire e servire Dio. Un giorno una sorella mi chiese: «Ellero, perché Dio, quando ci ha salvati, non ci ha portati subito in cielo?» Per un po' una domanda del genere, fatta a bruciapelo, mi fece riflettere, poi mi resi conto che le risposte potevano essere tante. Ma soprattutto, la ragione fondamentale per cui Gesù non rapisce chi crede in Lui è perché possa conoscere la gioia di poterlo servire. Gesù disse ai dodici: «Io vi ho costituiti perché andiate e portiate frutto». Sono pochi, molto pochi, coloro che hanno capito questo principio di Dio. La quasi totalità dei figli di Dio preferisce essere servita, fare una vita comoda, godersi la salvezza, la pace e la gioia di Dio. Però la vita cristiana, vissuta solo nella gioia e nella pace di Dio, manca l'obiettivo per cui Gesù ci ha salvati. Paolo scrisse ai credenti di Corinto: «L'amore di Cristo ci costringe, essendo giunti alla conclusione che, se uno è morto per tutti, dunque tutti sono morti, e che egli è morto per tutti, affinché quelli che vivono non vivano più d'ora in avanti per se stessi, ma per colui che è morto ed è risuscitato per loro». 2 Corinzi 5, 14-15. Secondo Paolo, servire Cristo è il risultato di aver capito il piano della salvezza. La vita che abbiamo e che definiamo la nostra vita appartiene ad un altro. Noi non siamo padroni di niente, non abbiamo autorità su nulla: tempo, denaro, sesso, affetti, obiettivi. Tutto è di Cristo, e in quanto tale, tutto deve essere messo al suo servizio. Non si tratta di dare spazio a Gesù Cristo, il nostro Salvatore, ma di ricordarci che abbiamo ceduto ogni cosa. Troppi figli di Dio stanno andando in cielo in treno, seduti in un vagone di prima classe. Ma vi è un'altra ragione fondamentale per cui coloro che sono stati salvati da Cristo devono servire Dio. Fino ad ora ho considerato il motivo del nostro servizio dal punto di vista del nostro rapporto con Dio. Ma vi è una ragione orizzontale, cioè vi è un motivo che ha a che fare con noi stessi e con il nostro prossimo. Per questo infatti ci affatichiamo e siamo vituperati, poiché abbiamo sperato nel Dio vivente, il quale è il Salvatore di tutti gli uomini e principalmente dei credenti. Comanda queste cose ed insegnale: nessuno disprezzi la tua giovinezza, ma divieni esempio ai fedeli nella parola, nella condotta, nell'amore, nello spirito, nella fede e nella castità. Applicati alla lettura, all'esortazione e all'insegnamento finché io venga. Non trascurare il dono che è in te, che ti è stato dato per profezia, con l'imposizione delle mani da parte del collegio degli anziani. Adoperati per queste cose e dedicati ad esse interamente, affinché il tuo progresso sia manifesto a tutti. Abbi cura di te stesso e dell'insegnamento, persevera in queste cose, e facendo così salverai te stesso e coloro che ti ascoltano. 1 Timoteo 4, 10-16. In queste poche parole, Paolo ha dato a Timoteo uno schema di vita cristiana veramente intensa: essere di esempio, applicarsi nella Chiesa, non trascurare i propri doni, stare in guardia contro i pericoli, perseverare in tutte le cose. L'Apostolo Paolo si è espresso con dei verbi, e questo è conforme al cristianesimo perché, come disse qualcuno, i termini che definiscono il cristianesimo sono dei verbi, non degli aggettivi. I verbi parlano di azione, di movimento e, nel nostro caso, di servizio. E tutto questo in un contesto di fatica e di disonore. Purtroppo pochi hanno compreso questo aspetto del cristianesimo, perciò spesso accade ciò che disse Gesù nella parabola del seminatore, quando si riferì al seme caduto in luoghi rocciosi. Vi è una categoria di persone che ode la parola e subito la riceve con gioia, ma non ha radice in sé, ed è di corta durata. E quando sopraggiunge la tribolazione o la persecuzione a causa della parola, ne è subito scandalizzata. Il vero servitore di Dio è colui che non si lascia condizionare dalle contrarietà, perché sa, come dice il libro dell'Ecclesiaste, chi bada al vento non seminerà, e chi sta a guardare alle nuvole non mieterà, Ecclesiaste 11:4. Servire dunque a qualsiasi costo. Servire, questo è il comandamento di Dio, perché servire? Non si potrebbe vivere stando a contemplare, come disse Pietro sul monte Tabor, la gloria di Dio? Paolo ha espresso due ragioni fondamentali perché dobbiamo servire Dio. Uno, perché salverai te stesso. La parola salvezza nella Bibbia ha più applicazioni, perciò Paolo non sta sostenendo che siamo salvati per opere. La parola salvezza si applica in tre direzioni: presente, passato, futuro. In effetti, leggiamo nella parola di Dio che siamo stati salvati, che siamo salvati e che saremo salvati. Riferendosi al presente, Paolo sta dicendo a coloro che sono figli di Dio che se vivono una vita al servizio di Cristo saranno salvati, cioè vinceranno le tentazioni, saranno sottratti dal potere del peccato, staranno lontani dal male, saranno vittoriosi sulla corruzione. 2. Perché salverai gli altri. Anche con questa affermazione Paolo non sta riferendosi alla salvezza dalla perdizione, ma come il servizio di Dio ci è impediti di cadere nella corruzione, così essendo di esempio indurremo gli altri a fare lo stesso. Chi serve Cristo e disprone al prossimo, mostra agli altri come bisogna vivere. Nel corpo di Cristo sarà un membro sano ed utile. Purtroppo, vi sono alcuni errori nel servizio per coloro che sono figli di Dio. O alcuni hanno paura di sbagliare, ma essere timoroso di fare errori è l'impedimento che porta a non fare nulla. O alcuni sono talmente spirituali che non sono buoni a nulla nelle cose pratiche. O altri si riservano per i grandi servizi ma non concludono mai nulla. O altri ancora credono alle promesse di Dio ma non le realizzano, dimenticando che le promesse di Dio sono come gli assegni: non servono a nulla se non vengono riscossi. O ci sono figli di Dio che temono che il loro servizio non venga adeguatamente apprezzato. E è vero, il pericolo esiste. Ma amare e rischiare di non essere corrisposti, come vivere e rischiare di morire e sperare e rischiare la disperazione. Ma il più grande azzardo è non rischiare nulla. Chi non rischia nulla non fa nulla e non ha nulla. Alla fine nulla. O infine ci sono coloro che si vantano perché servono Dio. Ma Gesù ci ha insegnato di dire che siamo dei servi inutili quando avremo fatto tutto quello che ci era stato comandato di fare. Servire Dio è un dono, non un merito. Servire Dio è una grazia, non una disgrazia. Salvati per servire. Questa è la nostra chiamata. La nostra salvezza non è occasionale, ma è inserita nel piano creativo di Dio. Servire per essere salvati. Questa è la nostra liberazione. Il servizio ci esenta da tanti peccati e si ricevono tante benedizioni. Secondo ciò che è scritto, chi annaffia sarà annaffiato. Qualcuno un giorno mi chiese perché ostinatamente amassi certe persone, e la mia risposta non poteva essere che una sola: perché desidero essere benedetto. Chi ha compreso questo e avrà fatto quello che Dio chiede, quando sarà in cielo si sentirà dire: ben fatto e buon servo fedele. Coloro che andranno in cielo saranno tutti salvati, ma non tutti saranno chiamati fedeli servitori. In cielo tutti saremo giudicati e il criterio sarà il grado di fedeltà. Saranno considerate le nostre opere, secondo le possibilità date a ciascuno, ciò che saremo stati, ma anche ciò che avremmo potuto diventare, saranno considerati i nostri atti, ma anche le nostre omissioni. Sarà considerato l'operaio, piuttosto che l'opera, il valore delle opere, più che il loro numero, ciò che ci saremo sforzati di raggiungere, più di quel che sarà stato raggiunto. Dei nostri possessi, conteranno solo quelli che avremo messo al suo servizio. Delle nostre disposizioni, conterà solamente l'amore disinteressato. Delle nostre opere, quelle che ci sono costate di più, saranno quelle più considerate. Dei nostri peccati, egli non giudicherà di nuovo quelli che noi avremo giudicato e coprirà quelli che noi avremo palesato, ma svelerà ciò che avremo nascosto. In ogni cosa, egli terrà conto degli elementi interiori, degli impulsi e dei motivi più segreti. Dal momento che ci spetta un premio e un giudizio, incoraggio ogni figlio di Dio a vivere in modo da sentirsi dire: «Bene, buono e fedele servo, tu sei stato fedele in poca cosa, io ti costituirò sopra molte cose, entra nella gioia del tuo Signore». Che questo possa essere il nostro obiettivo. Febbraio 1996, Ellero.